pensieri, forse per dirli nei cimiteri. Il cervello è una bomba che può esplodere anche dalla tomba. La mente è un'arma, il cervello è una bomba e nulla può confiscarla. Il cervello è una bomba, le voci esploderanno il cemento ed esploranno tutto il male dentro con un cervello. Il cervello è una bomba!